Vista è sempre stato criticato perché rispetto appunto XP offre un'interfaccia grafica molto più bella, coinvolgente, ha tutta una serie di feature molto carine, però in realtà si pagano poi a livello prestazionale, quindi a livello di prestazioni fa sedere veramente la macchina, quindi ha bisogno di un hardware molto carburato e spesso appunto questo hardware molto carburato non giustifica appunto la presenza di queste cose. Quindi la gente preferisce ad esempio avere una macchina con delle buone caratteristiche, delle buone, ma soprattutto con un sistema operativo con ottime prestazioni, quindi preferisce ancora XP. Questa cosa purtroppo appunto con il Service Pack 1 non è stato migliorato. Ma c'è di più, il problema grosso è che con il Service Pack 3 per XP invece, questo Service Pack porterà dei grossi vantaggi anche a livello prestazionale per XP. Quindi, diciamo, entro la fine del mese prossimo dovrebbe essere arrivato anche il Service Pack 3 di XP. XP si troverà ancora di più in vantaggio a livello prestazionale rispetto a Vista. E questa cosa purtroppo Microsoft dovrà tenerne conto perché quello che chiedono gli utenti, al di là appunto dell'interfaccia grafica, delle bellezze delle icone o così via, è proprio anche le prestazioni. Quindi, se ben capisco, siamo in presenza di un aggiornamento importante per Vista che è già stato rilasciato, un altro aggiornamento importante per XP, il sistema operativo di Microsoft ancora più diffuso, e paradossalmente l'aggiornamento per Vista risolve una serie di problemi, ma Vista ancora non diventa un sistema performante. E invece migliorano tantissimo le cose per XP. Tant'è che forse quasi quasi tu dici XP diventa un sistema operativo da consigliare ancora oggi. Ma sicuramente sì, cioè diciamo che all'inizio, un po' come Vista, aveva dei problemi di sicurezza o altri problemi di questo genere, magari di non stabilità, ma con i service pack che ci sono stati e con l'evoluzione che c'è stata, XP adesso è un sistema operativo bello, solido, funzionale e che diciamo può fare le scarpe sotto un certo punto di vista, appunto a Vista. E quindi molta gente, soprattutto dal punto di vista aziendale, molte aziende non hanno ancora deciso e difficilmente faranno il passo di andare su Vista.